allora Natalie, Umberto ha mangiato questo gelato. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? E ti ho chiamato io, l'ho chiamato. E ti stavo a chiedere se sei andato a mangiare il gelato. Già sono andato a fare la visita, il gelato non mi ho mangiato. Hai capito? La visita già l'ho fatta, il coso, il gelato è che non boh. Ho preso e non ci sono andato, che è meglio. Porca miseria, ti ho capito male, c'è questa preparazione del cavolo. Ho capito che ci sei andato, però... Però il gelato non l'ho preso, aspetta un attimo, che anche a me stava dando fastidio la propaghetto. Sì, la miseria, io sono già con lo squalcio a 7, mi tocca metterla a 9. Natalie, prova ora. Se va, sei in banda laterale. Sì che ci sono, ma tu sei in banda laterale. Me ne ero dimenticato che era in banda laterale l'apparato. Caspittina. La vecchiaia carogna. Appena. Comunque è andato tutto bene, Natalie. Sì, non ci sono state variazioni da come me l'avevano fatto 6 mesi fa. Adesso è sempre uguale. Ok, meglio così, dai. Così pensa tranquillo e soprattutto ti mangi questo banetto gelato. Solo che con queste temperature non fa neanche in tempo a vederlo che è già sciolto. E infatti non ci sono andato a pigliarne uno gelato. Un fulmine tornandomene a Sassari, c'era un caldo. È pesante. Anche andare al mare così non è che mi piaccia molto. A meno che non te ne stai sempre in acqua, poi esci, ti asciughi, prendi e te ne vai. E infatti l'unica è quella. Sono acqua scoccia quasi 9, perché ogni tanto salgono questa specie di segnali. Oggi c'è il bellame forte. E infatti ho dovuto mettere lo squelci almeno più di 3/4, dai. Io di norma il cuore me ne ha molto poco, questo apparecchio è veramente basso. Se c'è a questi livelli, quindi ci deve essere proprio propagazione, disturbi di tutti i tipi e generi. E infatti, ma anda bene Meda. Vista ieri là è la partita Gianfra, 3-0 torna. Mi è sembrato di sentirlo da qualche parte, ma non l'ho vista. Non l'ho guardato, non ricordo cosa ho guardato. Neanche mi ricordo cosa ho guardato ieri, No, non le guardo, proprio non... Il calcio per me, ti ripeto, conosco solo che c'è una palla che gira e basta. E c'erano i ciclisti che c'erano stamattina, scendendo e salendo. Beati loro. Io però non ci posso andare perché sono a lavoro, quindi finché non smonto non mi posso muovere. E poi anche quando smonto sono stanco e quindi non... a me mi piace fare le cose con la calma. E infatti casa c'era il posto di blocco della finanza, c'era due macchine addirittura, però erano dall'altra parte in discesa, era quando stavo salendo, li ho visti. Sì, posto di controllo, perché già lo sai, adesso che sono tutti in libertà circola anche molto, molta di quella roba, allora ne approfitta, no? Se no, la gente al mare che stava andando, io credevo che stavano andando dove stavo andando io, invece se ne stavano andando al mare, hanno posteggiato lì. Sì, quindi non c'è neanche posteggio. Ma ho detto, da questa gente gira, ma lavorare non ci va, boh? Evidentemente gente che non lavora. Addirittura quella che lavora lì, dove fanno i tamponi, ha portato la madre e la figlia prima al mare e poi è andata ad aprire la situazione. Speriamo che non si allarghino troppo, sennò se ci capita anche una cosa del genere, sono guai grossi, lo stanno dicendo tanta gente che è preoccupata. Perché, cioè, ma la colpa è anche di certe persone che incitano, aprite tutte, cavolo, e dove c'hanno i vaccini, dove hanno fatto tutti i vaccini, stanno invece molto attenti come in Inghilterra, con questo cavolo di variante indiana. Boh, c'è gente che veramente non le basta, no, la prima lezione, ha bisogno di 2, 3, 4 lezioni ancora. E speriamo che non ne venga mai, mamma mia, già sta ben decuzzurato, se viene un'altra ondata ci hanno rovinati veramente. La gente deve capire che bisogna fare tutto con calma e con in sicurezza soprattutto. Non lo spiega da un'altra lì. Quelli vogliono il voto a qualunque costo, anche a costo di fare ammazzare la gente con cattivi consigli. Sì, infatti cos'è questa cosa di aprire subito le discoteche? Devono stare ma molto attenti. Lo sai che succeda come è successo quando ha aperto la discoteca Briastore, finta è da Pizzigaddo. Sì, ma infatti non ho capito dove, in Sardegna, ma sembra che ci sia un focolaio di nuovo. Solo che lui è stato in striscio, perché ero impegnato a lavoro. Non ho capito dove, c'è un focolaio in Sardegna, c'è anche, ne hanno pescato anche in continente. Speriamo che sia quello vecchio, però quello virus vecchio, che non sia quello nuovo, perché quello nuovo è cattivo, quello indiano è una brutta rogna anche quella. Sì, infatti dice che è più cattivo quello indiano, ma speriamo in bene. Io il 19 vado e mi faccio la seconda dose per il sicuro. Io sono domenica, non questa, la prima domenica di luglio. E dove ci sei anche tu, no? Il giorno 19 devo andare io, il sabato. Ma questo? Sì, alle 10:20 ce l'ho. Io e mia moglie, tutte e due, perché siamo andate due lo stesso giorno. Ah, capito. No, io vado i primi di luglio. Ce l'ho lì l'appuntamento sempre. È un casotto, guarda. Speriamo bene che ci protegga almeno, perché secondo i cosi sembra molto difficile non prenderselo, però se sei vaccinato almeno diventa un'influenza, non porta a quelle conseguenze gravissime. Comunque, speriamo in bene. Giulio, allora entra lascia perdere un po' se partite, mamma mia. Ma cosa, che quello è un crumido, eh. Io adesso vi mandavo quell'amico mio dell'Enel e lasciavo tutti i punti al buio, e adesso che lui staccava la batteria dalla macchina e ce la guardava ugualmente. Tutte le ho previste, tutte. E bisogna far fuori il satellite, allora. Non è possibile. Cioè, deve essere anche il mare calmo, perché non tira un alito di vento. Io mi ho acceso il ventilatore, perché non mi va di attaccare il condizionatore, perché poi se esci fuori ci sono... c'è troppo caldo, ti fulmina. Sì, infatti anche io ho il ventilatore qua, me l'ho attaccato. L'ho piazzato stamattina quando sono tornato e l'ho attaccato. Ah, io ce l'avevo sempre qua, fisso una zona che è conservata. Quindi è rimasto lì. C'ho anche il drone fermo da tanto, ma adesso dicono che non si possono utilizzare perché bisogna assicurarli, anche quello ci voleva. Figura, quando mai uscita la legge non trovano l'inganno? No, nel caso cada in testa qualcuno, anche se questo c'ha tutti i comandi, atterraggio automatico, decollo automatico, il fatto che il mio è grande, capito? Quindi adesso non può decollare. Ci sono tutti i filmati, anche quelli della stazione radio, fatti da 100 metri di altezza. Comunque c'è uno spettacolo, comunque questi oggetti vanno in alto e ti fanno delle riprese micidiali. È bello, sì. E te lo assicurato, ma dimmi tu. Ma gira Natali, noi stiamo rimanendo reclusi anche quando siamo liberi, preferiamo la prigione. Sì, comunque questi vaccini dice che anche a quella indiana ti proteggono, a quella variante indiana. Al limite, se proprio te lo prendi in forma leggera, non ti becca in forma grave, diciamo così. Sì, infatti per quello che servono sono ancora seccante, tutto quello che vuoi, ti farà male il braccio, però meglio quello che finire male. Stanno dicendo invece che dovranno organizzarsi meglio, perché c'è molta gente che sta male, gente che ha avuto il Covid e gli ha lasciato dei segni molto pericolosi, perché non è che ti viene e ti salvi, poi ti viene e ti fa di mare. Se non ti uccide ti lascia messo male, capito, cuore, ai polmoni, cioè danneggia un po' tutto, è una cosa veramente, è un carognone sto virus. Ah, signore, deve essere, abbiamo fatto qualcosa di male proprio per meritarci questo. Non è questione di aver fatto cose male, è questione che stanno distruggendo foreste, di tutto, di più, e quindi è ovvio che soggetti che abitavano di lì, sia animali sia altre cose che stanziavano, si sono trasferiti negli ambienti urbani e sono diventati dei patogeni molto pericolosi, e tutto lì è il problema. La colpa sempre dell'uomo è. Sì, infatti, la colpa è solo nostra se succedono cose del genere. Adesso hanno, non so se hai sentito, hanno fatto licenziati un altro allarme per la Sicilia e per l'Italia in generale, perché queste temperature stanno mettendo in ginocchio l'agricoltura, e in Sicilia addirittura c'è carenza d'acqua, e quindi prevedono che a breve ci saranno vaste aree desertiche, quindi arance, limoni di Sicilia, quelle cose lì, sono ad altissimo rischio, ma io lo vedo anche da qua, la roba si secca, proprio non capisce più se deve crescere, se deve morire, cosa deve fare, è un disastro nelle campagne anche qua, e di là sono molto più a sud, quindi è chiaro che da loro questa cosa è già iniziata in maniera vistosa. Certo. So che a Cagliari c'è questa penuria di acqua, quanto ho capito. Le zone a sud, perché con questa temperatura ci sono livelli di evaporazione altissimi, quindi anche se ha piovuto molto, però poi la secca tutto, appena esce questo sole che scotta veramente, è una cosa micidiale, guarda, da noi fuori non si può stare, infatti anche adesso sono tutti intanati come me, perché non fa, figurati in città di norma ci sono anche 2 gradi in più rispetto alla campagna, quindi c'è questo ancora più caldo, poi con tutti i condizionatori accesi, allegria. Le bollette della luce che lievitano. Adesso sembra poco, no? Io mi ho dovuto cambiare molti computer qua, proprio in previsione di questo, ci ho messo dei piccoli computer che hanno piccole ventole, perché quando c'avevo quello grande era un ventilatore d'aria calda e ti portava la temperatura a livelli non gestibili, non lo potevi neanche toccare, che diventava tutto caldo, proprio una cosa micidiale. Adesso con questi piccoli hanno lo stesso la ventola, però riescono, sono più moderni, riescono a dissipare meglio, però anche quello generava calore. Figurati tu. E anche io forse me lo prendo uno di quelli piccoli. Guarda, io ne ho preso uno, adesso non mi ricordo quanto l'ho pagato, però 100 di quelli piccoli, poi per attaccare anche al televisore, infatti è attaccato al televisore, l'ho pagato 165 euro credo da Amazon, e pensavo fosse il solito occhiale, invece ho visto che già si spende bene, maledetto, gestisce anche il 4K e va bene. Cioè, fino adesso è arrivato ieri, abbiamo fatto tutto il collaudo, sistema operativo compreso, insomma già è un prezzo abbastanza, così c'è, abbastanza accettabile, dai. Che cappa, adesso vedo un po', ruiaia. E oggi non entra nessuno, stanno tutti al mare, figurati cosa c'è sabato e domenica, Natale. Sabato e domenica, cioè deve essere un casino. Chi dice che era tutto bruciato, Antonio, ma ti pare devi stare tutto il giorno lì a farsi bruciare dal sole? Boh, io non ci riuscirei. Natale. Infatti i dermatologi si stanno facendo ricchi andando dallo studio solare, e porta anche quella malattia, quindi bisogna starci attenti, non è il sole nostro da bambini, che te lo ricordi, potevi giocare, c'era sì caldo, ma i raggi UV non c'erano tutti questi raggi UV che ci sono adesso, che si sposta una nuvola e ti brucia. Una cosa micidiale, proprio. E infatti dice che era tutto bruciato. Bisogna stare attenti, Tutta la gente esposta al sole dovrebbe usare quelle protezioni, proprio, tipo muratori, eccetera, perché sono i primi, Poi iniziano, poi favorisce anche le infezioni, perché ovviamente la pelle che è una protezione a sua volta ne esce, no? Si disgrega, si aprono piccole ferite, eccetera, bolle, quelle sono tutte in questa situazione, è un rischio in più. Sì, ci sa a me come mi fa, debole come sono, e sono da un bel po' che non ci vado al mare, come vado mi uccide. Ma guarda, ti dirò, anche tutte le persone che conosco io fanno una cosa, fanno molto presto al mare quando ancora non sono arrivati, diciamo, gli unni, no? Si fanno il bagno tranquillamente, si rivestono e se ne ritornano. Ma non ci stanno più in spiaggia come una volta, io mi ricordo da piccolo, ma anche quando c'avevo 25-30 anni potevo rimanere anche tutto il pomeriggio, ma non c'era una temperatura del genere. C'era il venticello, non c'era gente come c'è adesso un carnaio. Cioè era tutta un'altra storia, capito? Sì, infatti. Anche io sono del parere di andare presto. Ti fa il bagno e poi te ne torni. Allora di pranzo sei a casa, tranquillo. Pranzi a casa e non corri il rischio di farti male. Sì, ma non ne vale più la pena, anche perché poi c'è gente matta. Io ad esempio, per altre ragioni, quando sono in bici, purtroppo anche andando alle 8, quanto ne fai tra metterti in viaggio alle 8? Arrivi alle 8 e mezza, arrivi alle 9, però alle 9 c'è già caldo, arrivi fino alle 10, a volte ne fai intorno alle 11, 11 e mezza, se ritardi anche a mezzogiorno. Però in bici è ancora gestibile, è ancora gestibile finché tu muovi c'è quel venticello tranquillo, no, fatto dalla velocità, più veloce sei ovviamente più raffreddamento c'è, ma fermarti quando ti fermi, io sono trovi un posto d'ombra, sono dolori. Sì, già lo so. Io a mia moglie se la lasci andare sta tutto il giorno, io no, a giudizio mio, noi facciamo così e così, se vogliamo andare, se no non ci andiamo. Ma guarda, sabato scorso io mi sono fatto la parte, cioè meglio, devo fare delle cose anche di collaudo con degli apparati radio, però ero in bici, ho importati. Sono partito da Santa Maria della Palma e sono andato verso Portoferro, quelle zone lì, passando anche per il lago di Baras, eccetera. Era talmente tanto che non passavo lì che mi sono pure dimenticato il coso del sentiero e per un attimo ho pensato di essermi perso, non c'era un cane. E quindi ho detto, mamma mia, se c'è un caldo buio perché c'è la sabbia bollente, se mi capita qualcosa là, di qua non mi trovano, mi trovano dopo una settimana, mangiato dai cinghiali. Meno male c'era il telefono, quello grande, con GPS e tutto, ho rilevato la posizione, mi ha dato subito il sentiero d'uscita, eccetera. E comunque c'era, poi sono uscito di lì, mi ho fatto tutta la zona di Portoferro, ho visto che c'è anche il bar aperto addirittura, no? Tutti lì allegri, felici, senza protezioni, senza nulla. Sì, infatti, io sono andato lì per andarmene alla torretta, c'era il bar aperto, non mi seguo più, immagino, subito a casa. Manca pigliarmi il gelato, mi sono fermato. Perché dice c'è il gelato senza zucchero per i diabetici da Ernesto lì. Sì, ma se vuoi glielo chiedo, perché io sono un cliente fisso, ci conosciamo da. Ci vado da quando ero ragazzino, c'erano anche in bici, figurate. Ci sono andato quando era sabato, credo, sabato sera, noi andiamo un po' tardino che c'è meno gente, poi noi andiamo sempre in zona al tavolino, no? Che è preferibile, più sicuro. E io chiedo adesso, quando ci siamo, dico, ma ci avete anche dei gelati per chi c'ha il diabete, quelle cose lì? E poi te lo dico. Sì, perché non mi fido molto di Gianni, no? anni ti vuole fare fuori, capito? Perché quello se ne sbatte del diabete, si piglia roba di gelati tremendi. Caspita. A quando io avevo la metà del gelato, lui se l'aveva già sbranato il suo. Se lo sbrana frutta. Eh sì. Beh, anche io adesso ho dovuto ridurre, perché sennò veramente diventa una botte, però già mi piacciono. Io non faccio neanche, figurati, Natali, non faccio ordinazione. Ci vede e ti dice sì, siamo in due, sì. Ci sediamo e basta, aspettiamo che arrivi. Figurati un po'. Io quando uscivo la notte, uscivamo con Gianni, no? Ci fermavamo roba di gelato grande, tre gusti. Sì, io una volta mi ricordo che avevo preso la coppa, quella tavolina, quella grande, pensando che fosse piccola, ma in arrivo con questa cosa, Natalia, un altro po' non ce la fa, a me piace il gelato. Un altro poi non ce la facevo a mangiarlo neanche, una cosa gigantesca, proprio un lavamano sembrava. Figurati. Cazzo, ma Gianni è una cosa tremenda, il gelato proprio boh, deve essere, non lo assapora neanche questo gelato. Ma ancora metà io ne avevo mangiato e lui se l'aveva già sbranato, perché quello è sbranarlo il gelato. Sì, un attimino Natali, che c'è una comunicazione per me. Sì, ritornato. Speriamo che qualche imbecille non metta fuoco, che adesso anche quelli escono. Sì, infatti. Ai, ai, ai. Le 5:30 Natali, 5:28. Ci manca solo quello, aumentare ancora di più la temperatura. Già siamo in alto. Non abbassa neanche nei prossimi giorni, mi sa. Rimane più o meno così. Lo so. Fate l'immagine quel Giulio che ci lascia da soli. Infatti almeno nella pubblicità potrebbe entrare. Giulio non entra perché non c'è quello che lo mette la portante, non c'è il gusto di lui, a lui piace soffrire con la portante. Allora, solo per quello non entra, perché non gli mettono la portante. Te lo immagini che fregatura per quello lì, lui pensava di disturbare, e invece adesso che non c'è, non entra, bastava darle un po' di partita da guardarsi, e se proprio non voleva in radio non l'avrebbe fatto entrare. Sì, ma Giulio poi ce l'ha giù il televisore grande, perché lui se le vuole guardare con quello grande, quindi gli viene un po' in salita a entrare anche al baracchino, capito? Vuole vedere le cose grandi. Adesso ci sono quelli che sono dei mostri di 50 e passa pollici. Sono micidiali. Costano anche cari, Però insomma, quello che ho io è, non è piccolo, è da 40, qual era, 40, 42 credo, buona cosa del genere. Ed è anche troppo grande per me, perché io la TV la guardo sempre quando me ne va a letto. Sì, anche io me la guardo a letto, l'ho attaccata al muro lì la televisione. No, io ce l'ho col piedistallo, si può anche attaccare al muro, ma capace che si pulisca anche meglio attaccato al muro, però è tutto cavetti, perché col televisore controllo anche tutto il circondario, capito? Perché è collegato alle varie telecamere. E niente, quelli fini, se sembra che ti serva a staccare in mano da un punto all'altro. In compenso sono leggeri, quello, quello che hanno di buono, che sono leggeri, se devi spostare, anche se sono grandi, però ti danno un senso di fragilità, no? Abituato a quelli, di prima generazione che pesavano un raio. Quelli col tubo cattolico, mamma mia. No, quelli veramente, quelli grandi, erano intrasportabili, veramente. Era una cosa che ti faceva i muscoli. E quello è poco ma sicuro, anche il mio è di quelli fini fini. Infatti non c'è bisogno né di decodere né di nulla. Quello già dice che prende tutto questo. Tranquillo, l'ho preso a poco. Sì, ma infatti conviene prendere direttamente i televisori, perché ci sono quelli di fascia tra virgolette bassa che funzionano perfettamente. Ci sono certe marche poi che qua in Europa sono poco conosciute, capisco, tipo la, come era, TLC credo, TCL a nominamento. Però in realtà sono delle grosse marche in Asia, perché fanno concorrenza ai colossi tipo LG e Samsung, anzi addirittura sono produttori proprio dei pannelli, li danno anche alla LG, alla Samsung, quindi non sono ecco marche da drivisi come può essere l'Amstrad o quelle case lì. E infatti la mia è una Hisense, si chiama. Sì, la conosco, è una marca di fascia media, dai, una new entry dovrebbe essere, ma poi fanno capo sempre a grosse marche che producono, che vogliono entrare anche nel mercato degli oggetti che costano di meno, capito? Non è che puoi fare televisori sempre da 600-700 euro, se li compra solo chi c'è soldi, e quindi devono occupare anche per forza dei mercati più economici. Sì, infatti, questo è grande e si vede benissimo. Sì, tanto che hanno sempre quella tecnologia, non è che si spostano più di tanto, hanno qualche cosina in meno, ma niente di particolare per chi è abituato a guardare le cose essenziali. Comunque c'è un abisso rispetto a quelli che ricordavamo noi, i prima colori, te lo ricordi Natali? Si vedevano quei colori un po' anemici a volte, un po' così, no? Questi invece hanno tutta una cosa di colori spettacolare. Sì, infatti, è tutta un'altra cosa. Anche di chi conviene togliere un po' di squelci, vediamo cosa succede. E adesso vediamo, è sempre alto il QRM. Cioè io ho provato a metterlo su S7, vediamo un po' se disturba. Pausa di riflessione. Gatta, io c'avevo una X50, ce l'ho dovuta buttare, non riceveva niente, una mazza, non riceveva nulla. Ho fatto prima a mettere la collineare della macchina, quella riceve di brutto fuori dalla finestra. Natali, non è controllata, magari erano i condensatori partiti. Qua, dalla frutta, poi sembra che ne mancasse un pezzo, boh. Quando mai un'antenna così lunga, dentro era corta, l'ho aperta per vedere. Boh. No, corta può essere più corta, per gestire anche la dilatazione all'interno, però no, corta, ecco. A meno che, siccome ho notato che molte di queste antenne a volte non sono proprio fatte bene, sono, o peggio, sono delle imitazioni, che tendono tendono a corrodersi, se non sono, non hanno la qualità, tendono a corrodersi, quindi dopo qualche anno le trovi tutto messe male. Sì, infatti, gira gira me la compro una X30 nuova. Come fai a metterla fuori? È sempre lì, siamo. Sì, già lo trovo il modo di metterla. Cosa hai detto che era una X50? Quella che avevo io, sì, era una X50. Solo che secondo me ne mancava la metà dentro. Sì, io ne ho due di X50. Io ho la X300, che è quell'altra a 3 metri, la X50 credo che quanto è, 1,5 metri, 2 metri, una cosa del genere. Sì, infatti, dentro mancava la metà dell'antenna, praticamente. La X300 dovrei averla in campagna, piazzata. E allora, perché non te la prendi da lì? La controlli, la pulisci bene? Non ce n'è tanta voglia di salire lì. No, è mica lontano, no? Sono quante? Un 15-20 chilometri. Ah, da qua è vicino. Oh, yes. C'è la Mantova 5 che ce ne sta ridendo. Ridendo. Sopra un palo da 12 metri l'avevo messo, due pezzi da 6 metri erano, però se ne sta ridendo. 2 mesi e quell'antenna l'ho usata e poi me ne sono andato. Ma c'è molto terreno, Natale? Un ettaro è qualcosa. Caspita, allora è grande. Lo vendi? Perché ci stanno, non è tutto mio, ci stanno due miei fratelli lì, capito? C'è anche l'antenna multibanda che avevo costruito, funzionava così bene quella lì. Ah, ho capito. Sì, quando è così è un po' macello. Anche il mio collega lo stesso ce l'ha la campagna, però diciamo è in comproprietà praticamente. Lui ci va solo quando c'è da lavorare, capito? Però gli altri non fanno niente. E quindi egli ha ragione, in campagna c'è molto da lavorare. E infatti gli ho detto, ma perché non te ne prendi una per conto tuo e fai prima? E infatti, quando c'è altra gente in mezzo non va mai bene. Così c'avevo il gommone insieme con mio fratello. Beh, è andato e ci ha venduto tutto, anche le canne me ne ha fottuto. Di quelle canne col mulinello a tamburo rotante erano, cavolo. Ogni danno. Motore, carrello, il carrello tutto zingato, era bello. Sì, oramai sarà marcito, perché ne sono sicura quella cosa, a iniziare dai freni, partono subito. No, se l'ha venduto e a me non mi ha dato nulla, capito? Bello così, no? Vabbè, è bello sì. Anche io ce l'ho qua il gommone, proprio qua fuori, col carrello che però l'ho visto revisionato, tutto cosa, mentre il gommone è buono, c'ha una moto da 40 cavalli, un Mercury, di quelli direttamente automiscelanti e tutto, 4 cilindri, buttato fuori, infatti adesso cerchiamo qualcuno interessato, so portare via il carrello e tutto, tanto di cose abbiamo 3, figurati, qua ci sono la bellezza di 3 imbarcazioni, due in vetroresina, un motoscafo o dove sia, neanche me lo ricordo cos'è, guarda, ricordo perché sono tutti, più c'è il mio gommone con questo motore e tutto. Vabbè, l'abbiamo sfruttato nei tempi belli, ma oramai Natale non fa più, no. Ogni cosa deve avere il suo tempo. Sì, infatti, l'ho provato un bel gommone, cioè di un amico mio, perché lui non era buono a scenderci le cose, allora gliel'ho insegnato io. E l'ho provato il motore 40 cavalli, è veramente bello. Di lusso. Quello che avevo io era un Yamaha 25, invece questo che c'ha questo amico mio si alza da solo e tutto, bellissimo motore, 40 cavalli, e in poche parole l'ho insegnato come si scende, come si sale, il gommone, a fare le manovre, non era una nuda, perché andava sempre con il nipote lui. E faceva tutto il nipote. Marinaio di Seccomi, Natale, in poche parole. Anche il mio c'è il trim, no, elettrico, che lo alzi, lo abbassi, insomma, fai tutto quello che vuoi. Però per vedere in acqua e poco filava, ma l'ha detto quando era pulito, soprattutto nella chiglia, aveva fatto. Ma il mio rimaneva sempre al mare, cioè c'avevamo lì al Porto Conte, quando ancora non è successo il casino del parco, eccetera. Uscivamo, andavamo lì a giocare a boccaccia e siamo fatti pescate. E meno male ce le siamo fatte, ce le siamo volute, se no erano soldi buttati, perché costava quanto una donna mantenerlo, Natale. Ce la stanno mettendo, Gianfra. Ce la stanno mettendo? Sì. No, non ho capito, Natale. Ehi, te la portante, mi. Beh, se ti ho detto che ne sentivamo una mancanza, stavamo pure annoiando. Va a punire abbondante, qua abbiamo S9 di segnali QRM per mettere abbondante il poverino. E adesso entra Giulio, così impara. Bisogna chiamarlo, infatti, adesso Giulio entra, dai, che c'è l'abbondante tua, la preferita. Quindi. E allora, magari ha qualche segnale così di propagazione, talmente forte, guarda. Ma non saprei.